La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Signore e signori, adesso va in onda La bella estate con il grande favoloso Tommaso Labranca. Siete pronte? Bene, approfittate della carica che vi dà questa musica, che ricordo, è oltre che essere Rossini, è tratta da uno dei miei film preferiti, Arancia Meccanica. Come vorrei ripetere le gesta di quel meraviglioso film. Ultima puntata della Bella Estate, puntata numero 45, la metà di 90, che sarebbe poi La paura. E oggi veramente sarà una puntata un po' paurosa, perché non sono da solo nello studio. A farmi compagnia ci sono due giornaliste, in questo momento una, perché l'altra sta lavorando, arriverà tra poco. Bentornata De Averna. Ciao Tommaso. Come va? Ma benissimo, come sai io sono sempre più in attesa, ormai so agli sgoccioli. Lo so. Vi ricorderete, De è stata ospite qualche settimana fa ed è incinta al nono mese. Sì. Nono preciso. Ma proprio la settimana prossima è fatta. Se nasce come lo chiami, 24. Tu sei pronto? Io sì, nel caso, pronto. Ogni evenienza. Per ogni evenienza. Allora, perché il Guglielmo Tell? Perché dar la carica? Perché come avete avuto una carica per partire per le vacanze, adesso avete la carica per tornare dalle vacanze, quindi dovete rifare le valigie, non dimenticare niente, inserirci anche tutti i souvenir. E quindi qual è il nostro idolo, il grande organizzatore? Chi è? Furio! È lui! Senti, tesoro, allora vediamo un po'. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto? Sì. Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Sì. Le persiane le hai sprangate? Perfetto. La sacca e i documenti l'hai presa? Sì. Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA? Sì. Perfetto. Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino? Sì. Perfetto. A proposito, il prosciutto dove l'hai preso? Da Luciano o da Gino? Luciano. La prossima volta, scusa, prendilo da Gino. A parte il fatto che il taglio è migliore, ma poi il prosciutto di Gino c'ha tutto l'altro sapore rispetto a quello di Luciano, scusa. D'accordo? Sì. Senti, un'ultimissima cosa, il binocolo l'hai preso? Ma a cosa serve il binocolo? Come che serve? C'è tutto il tratto appenninico da Bologna a Firenze che paesaggisticamente è una favola. Papà, l'ho preso io! Bravo, 8 ad Anton Giulio e 5 alla mamma. Povera mamma, sto scherzando, ci mancherebbe altro. Manca un minuto alle 7:30, quasi quasi l'impiego per richiamare Laci, d'accordo? Tu mi aspetti qua. Laci, un momento. Matta, tu mi adori? Sì. E allora lo vedi che la cosa è reciproca? Dea, tu mi adori? Tantissimo, ma tu sai che Furio è mio marito. Lo so, Furio, quindi, è tuo marito, ecco. Questa clip l'avevo già fatta sentire tempo fa. Oggi guardate tutto un tagli ritagli, frattaglie, repliche. Peggio della Rai, perché sai che la Rai in 5 mesi ha replicato tutto, persino il musichiere quest'estate, no? È stato molto bello. Ah, non ho detto il tema della puntata. Non lo so nemmeno io. Ma non c'è un tema oggi, la puntata si chiama La luna e i falò. Sì. In omaggio a colui a cui abbiamo rubato il titolo del programma, Cesare Pavese, che ne abbiamo approfittato perché non c'è più da un po' di tempo, sai? Magari ecco. Non sarebbe stato contentissimo. No, per me sarebbe stato contento, sì. Perché in fondo La bella estate è un racconto lungo, un romanzo breve, dipende da come lo osservi, è molto, molto leggero anche, cioè, è la solita pesantezza di Pavese, cioè, però è l'estate di una ragazza praticamente, che passa da un divertimento all'altro, cosa che non ho fatto io, tu l'hai fatto? Ma io figurati, per carità. Più di fare ecografie. Quindi oggi potete chiamare all'800 24 00 24 anche per insultare, per salutarci, per dirci che cosa vi è rimasta di questa estate 2011. Per esempio, parliamo di quello che c'è stato nell'estate 2011. Non c'è stato tantissimo, vero? Ma come no, c'è stato uno dei pezzi più importanti che resteranno nella storia della musica. Ah, quello sì. Quale secondo te? Quella roba con quei due tamarri sulla barca. No, non erano gli Wham, erano questi. Conosce da un po' di anni, no? Purtroppo sì. Come purtroppo? Devi dire semplicemente sì. Sì. Ecco, tu mi conosci da un po' di anni e quindi sai come io recepisco questi pezzi musicali, per di più in questo spagnolo contrabbandato. Li adori? Li adoro tutto il giorno in mutande a cantare e ballare questa musica a casa, vero? Ti sei fatto 2-3 tatuaggi per celebrare il Cuduro? Come no? Sotto le ascelle proprio, guarda. Ho fatto dei tatuaggi, mi sono tatuato 2 art magique proprio, così ho risolto tutti i problemi in una volta sola. Senti, ma il fastidio più grande di quest'estate, mentre la Cagnola, stiamo aspettando Marta Cagnola, che però sta lavorando di là, adesso arriva. Sta facendo cose serie. Forse il fastidio più grande di quest'estate, oltre che la danza Cuduro e altri pezzi che poi vi farò sentire, è stata la Pellegrini. Sì, guarda, ce ne sono due. I grandi fastidi dell'estate sono stati due. La Pellegrini, sì? Il suo quadrangolo che ci ha tenuto attaccati tutta l'estate, evidentemente perché non ci sono state altre storie di gossip. Sì. Non ci dimentichiamo i clippini di Vasco Rossi. Anche i clippini, ecco. Di Vasco Rossi, sì, ma la Pellegrini, dopo parleremo anche di Vasco, ma la Pellegrini perché? Perché manca altro, ci manca... Manca altro, ma figurati se l'anno scorso che c'erano... No, 2 anni fa c'erano Canalis e Clunis, l'anno scorso c'era la Villa di Fini a Monte Carlo, quest'anno non c'era niente e la love story tra 2 nuotatori. Tra 2 nuotatori addirittura. Che normalmente chi se li fila? I nuotatori? Ma non lo so, cos'è? Chi è? Azzurro il pomeriggio, oh no. È troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo, oh, santo di cielo. Non avere più risorse senza di te. Chi vi ha fatto entrare? Ora io quasi quasi prendo il treno e vengo a te. Grazie, basta. Ecco. La puntata si chiama La Luna e i Falò, ma mi siete venuti qui per cosa? Per fare il coro dei Falò sulla spiaggia? Lo sapevo, mi hanno fatto questo regalo, in studio ho una selva di persone, non so neanche io quante, che pensa di farmi una cosa gradita cantando le canzoni che cantate di solito in spiaggia quando c'è il falò acceso. Ora, ma è vero che lo fate? Per me non lo fa nessuno, tu l'hai mai fatto? Allora, l'ho fatto, ma secondo me non si fa più. Ecco, sì, è arrivata Marta Cagnola. Sono arrivata col fiatone. Sono arrivata col fiatone, stavo facendo nel frattempo altre 7-8 interviste. Falò sulla spiaggia, mai fatto uno. Anzi, non so, qualcuno mi invita a fare un falò sulla spiaggia. Guarda, ne faremo parecchi oggi, perché questo non è stato che il primo. Io ho sentito cantare, io sono preparata. Ma se sei preparata come loro, sei a posto. Non preoccuparti, non preoccuparti, perché adesso sai cosa può essere il prossimo passo? Quale può essere? La grigliata di Pesceratto. Ehi, come va la pesca miracolosa? Bene, bene, ne abbiamo già presi 8, tutti dello stesso tipo, belli grassi. 9. Dio, che uomo! Sono topi di fogna. Sì, ma scusi, ragioniere, ma io avevo avuto il mezzo sospetto che... Sei sempre il solito maiale, mandato a pescare al largo, zozzoni! Ma sì, prendete la mia barca, no? Facciamo una cosa, butti via questi topi. Ma che topi è topi? Per favore, ragioniere Fantozzi, non ci si metta anche lei. Esiste il pesce cane, il pesce gatto e il pesce ratto. Possono piacere o non piacere, e su questo io non discuto. Ad ogni modo, a me la grigliata di pesce ratto piace da morire. Ad ogni modo, lei lo ha detto, buttiamo a mare questa grazia di Dio. Splash! E il pesce ratto torna nell'acqua. Allora, adesso che è arrivata anche Marta Cagnola. Sì. Sì. Sì, la voce... ancora un po' di fiatone, ma dai, su, sei abituato a fare di peggio. Ma certo. Allora, qual è stata la dieta dell'estate? In generale? In generale, sì, la dieta del 2011. Io ho sentito parlare solo della dieta Dukan. Sì, quella lì della... Sì. Quella là, come si chiama? Non ho sempre sentito parlare di quella, non lo so, io ho mangiato quest'estate. Senza problemi. Hai solo sentito parlare. Che poi sono tutte uguali le diete. E cambiano i nomi so. Sempre. Ma poi mangi solo proteine e basta. Ah, come si chiama la principessa, quella che si è sposata? Anche quello è stato un evento estivo alla fine. Beh, ah no, quella, la principessa triste, dici? Qual è? Soraya? Io non so. A lui è piaciuta solo Kate. In realtà a lui era piaciuta solo Pippa. Pippa, sì. Poi Pippa è piaciuta anche agli altri. Allora non gli è più piaciuta Pippa, perché è diventata troppo mainstream. Non ho capito niente, ma mi accodo. Sicuramente sono d'accordo. 800 24 00 24. Perché oggi vogliamo sapere anche che cosa è rimasto a voi dell'estate 2011. A me praticamente cosa è rimasto? Gli insetti. Mi guardano male gli insetti, perché è stata un'estate senza zanzare questa. Non sono solo le zanzare a essere insetti. Per venire qui in radio, io prendevo la metropolitana tutti i giorni E nelle, dovete sapere che a Milano ci sono delle fermate che possiamo definire sfigate. Caiazzo, quelle dove non scende mai dove nessuno, non scende, non sale mai nessuno. Tu dici, perché esistono? E io scendevo appositamente lì, e deserte, c'ero soltanto io perché non c'erano viaggiatori, e vedevo che per terra c'è una popolazione di formiche, insetti sconosciuti, e ho fatto anche amicizia. Ma non avevo dubbi, ma loro cosa ti raccontavano? Guarda, ne ricordo uno che mi ha detto: ti parlerò del mio viaggio in Namibia. Tu sorridimi, dammi 24 ore, ti vengo a cercare tra Venere e le lucciole. Il giorno migliore, migliore. È proprio Giorgia questa? Guardate me, cosa state guardando? È proprio Giorgia? Purtroppo sì. Di nuovo. Ma come si spengono i falò? Serve della sabbia? Cosa serve? Le bionde trecce, ecco, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Ma sono anche stonati. E l'innocenza sulle gote tue, arance ancor più rosse, e la cantina buia dove grazie vuoi. grazie. Se arriva la moglie di Battisti, sapete cosa ci fa? Quella lì non è quella molto lì, sportiva, quella non è sportiva. No, no, una volta ci fa pagare. Ha fatto un tamponamento con Grace Jones, e beh, ha vinto lei, l'ha morsicata. Grace Jones era scappata via. Questi falò andrebbero estinti. Proibiti, per basta, legge. Basta. Allora, stavo dicendo, ma era veramente Giorgia? Così pare. Sì. Si è messo a fare queste canzoni così allegre, cos'è? Non lo so, sarà... Ha mangiato un omogenizzato. Sì, dopo i 40 bisogna dopo i 40... reinventarsi. Sì, però che prenda un po' così anche lezioni di contemporaneità. Sembrava Paolo e Chiara del 2000. Comunque, ma non diciamo cattiverie, non diciamo no, cattiverie. Mai. Allora, parliamo allora di Vasco, dai, che avevamo citato prima Vasco. Dei clippini di Vasco Rossi. I clippini di Vasco Rossi, è un po' che non è... Vabbè, adesso no, oggi c'è sta... No, oggi c'è stato l'ultimo dalla clinica. Dalla clinica? Certo. Cosa ha detto? Ho visto solo il titolo sul Corriere.it, non ho il coraggio. L'abbiamo mandato anche in onda nel GR Spettacolo. Allora lui ha detto che non è vero che è stato ricoverato e che lui ha occupato la clinica perché così è più comodo. Perché non ci sono perché alberghi e vado in clinica. Sì, povero, però è simpatico. Alla fine ci ha rallegrato l'agosto degli spettacoli. Ci ha funestato l'agosto. No, non ci ha funestato. Lui ha inventato un nuovo linguaggio, dai. Prima la rockstar era lontana, non la trovavi, era nascosta, chissà dov'era, chissà cosa pensava. C'era sempre il manager che faceva da filtro. Invece lui è diretto. E infatti tutti i giorni io penso al suo ufficio stampa, che alla sarà... povera Tania Sachs, che non so... Che sarà Tania Sachs. Scusate, deve soffrire per tutto quello che ha fatto in vita sua, deve soffrire perché sai di quelle no Vasco non esiste, ti chiude il telefono in faccia, per cui dai. Ma infatti dai, godiamo solo per questo. Basta con le esclusive, no. c'è di più. Allora, abbiamo sentito Danza Cuduro e abbiamo sentito Giorgia, ma queste sono cose italiane, proprio tristissime. Beh, sapete chi è al primo posto della hit parade in Finlandia in questo momento? Non vedo l'ora di saperlo. Jukka Poikki. Vabbè. Kerron sulle, mikä saa mut syttymään, mikä saa mut näihin tansseihin jäämään. Enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellei pääsi sua kotiisi viemään. Mekin takana mun lemppari DJ, ja se soittaa meille vain hyviä biisejä. Enkä pois toivon... So che vi piacerebbe sentirla tutta, e magari anche più volte, questa canzone. No, ma chiama... io adesso mi scarico il CD, ci sarà tutto l'album. Ma penso proprio di sì, si chiama Siki, con due I, due K, due I non fanno economia in Finlandia, è proprio tutti Siki. E si chiama Jukka Poikki, numero uno in Finlandia, sappiate. Oh, allora, invece, a me piace una musica, cosa sento? No. Vagabondo che sono. Ah, scusate. Vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. non posso portare il cellulare in studio, altrimenti chiamerei la polizia. Ma no, ma è che è automatico. Senti, non ti viene voglia? A me proprio no, viene voglia di scappare. Ma durerà molto questa festa sulla spiaggia? Ma scusa, io te l'ho detto, non sono mai stata a un falò. Il primo falò in cui mi invitano, anche se sono in radio ed è di pomeriggio, io non resisto. Senti, so che hanno già chiamato la Confindustria, però non ti dico cosa hanno detto. Allora, state fermi adesso, basta, fatevi le salsicce, il grigliato di pescerato. Lo so, mi guardate male perché dite sempre che io sono cattivo, sono asociale. Diciamo perché ti conosciamo da tanti esatto, anni. Ma io so benissimo come morirò, lo so benissimo e lo sapete anche voi. Morirò così. E alla fine sarei morta grassa e sola e mi avrebbero ritrovata dopo 3 settimane mezza divorata dai cani alsaziani. Sembrerà strano, ma questa canzone mi piace tantissimo. Ah, qualcosa che ti piace? Questa sì. E poi è perfetta con la clip che abbiamo sentito, Morirò grassa e sola. Adele, grassa e sola sicuramente. Perché... No, ma è tanto brava. Morirò così, divorato dai cani alsaziani, è vero? Lo sappiamo. Sono anni che me lo dite, morirai divorato. Te lo meriti. Dai cani alsaziani. Ma se io sto bene a casa, da solo, ascoltando la mia musica islandese, perché dovete sempre farmi sentire... No... Tiri piano senza far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sta già male quel povero uomo, alba, ve la state tirando. Sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi. Possiamo smetterla? Nei tuoi pensieri. Stop! C'era il pezzo bello, no? Il pezzo bello ve lo fate a casa dopo, quando sarò andato via io, dopo, più tardi, quando finisce il programma. Poi questa è proprio l'ultima puntata della Bella Estate, conclusione degnissima. Infatti da domani metteremo tutti il piumino, il cappello, i guanti e la sciarpa. Non vedo l'ora. Ecco, a proposito, parliamo della moda di quest'anno. C'è stato qualcosa che vi ha colpito quest'estate? Quest'estate c'erano quei calzari un po' donavano molto, diciamo. Quei calzari alti, da schiava, piatti. Presente? E poi quest'anno l'orrore massimo è il ritorno delle espadrillas. Essercene liberati da almeno 22-23 anni, sono tornate le espadrillas e sembrano anche glamour, non ci riesco. Io, tanto per restare in ambito radiofonico, ho visto Federico Taddia che le portava. Vabbè, ma Federico è così, è un po' alternativo al suo look. Lui è al suo look un po' alternativo, un po' beach, un po' spiaggia, no, Federico può. Ah, vabbè. Come mai non è qui a cantare con voi allora, con queste belle, meravigliose canzoni da spiaggia? Accidenti, però potevamo invitarlo, Federico sarebbe venuto. Vabbè, senti, per fortuna non è venuto, voglio dire per fortuna sua. Allora, abbiamo visto Vasco, ne abbiamo parlato, l'avete già anche distrutto musicalmente, stava già male, adesso starà sicuramente peggio. Abbiamo parlato delle principesse di Charlene, l'altra che si chiama Kate. Poi cos'altro c'è stato? Questa è stata la Pellegrini. Che poi Kate è stato in aprile, scusa. Ma era già estate, per noi era già estate. 6 mesi d'estate, 6 mesi d'inverno, che bello. Il calendario. Come al polo. D'altronde, ragazze, qui a Milano abbiamo un clima praticamente stranissimo, no? Per cui abbiamo gli inverni in cui moriamo di freddo, meno 10, la mattina vedo meno 10, l'estate invece 82. Beh, però quest'estate ce la ricorderemo come l'estate in cui ha piovuto sempre. Ma quando? Non... A luglio ha piovuto sempre, dai. Però è vero che a marzo facevano 30 gradi. E quindi sì, stiamo scombinando tutti i fogli del calendario, Tommaso. Va bene, allora, signora mia, non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più, com'è vero. Certo. E non sappiamo più come le arance, no? Come le fragole, non hanno più un buon sapore. Sì, come una volta, quando i mulini erano bianchi. Insomma. Non fare pubblicità occulta. Abbiamo avuto una puntata particolare in cui abbiamo parlato della montagna, perché quando dite vacanza uno ci pensa sempre il mare, una noia mortale. No, c'è stata anche una puntata dedicata a quelli che vanno in montagna e aveva chiamato verso la fine del primo blocco un signore che mi stava così magnificando i funghi. Che belli funghi, porcini, finferli. Allora ho detto, ma quale fungo vale di più? E quindi ha cominciato a fare un po' le quotazioni. Allora, siccome dovevo lanciare la borsa, ho detto, chissà, magari la borsa ci dà delle informazioni sui funghi. L'ho sentita! Il virus della Bella Estate ha colpito anche la borsa, sentite. Borse in diretta. Non siamo in grado di darvi le variazioni percentuali oggi dell'andamento dei funghi, come sosteneva appunto il conduttore della trasmissione precedente. Siamo quindi, come al solito, presenti invece sul mercato azionario, che oggi vive una giornata decisamente positiva. Mi sono sentito veramente male, ho detto male. Mi sono sentita male nei panni di Deborah quando tu perché? L'hai lanciata dicendo che lei avrebbe dato le quotazioni dei funghi. Ma allora, devo sempre collegare, scusa, quando abbiamo parlato dell'abbigliamento, dei gadget, stavamo parlando dei borselli da uomo, io ho detto bene, dal borsello alla borsa, se non mi hanno cacciato quel giorno ho detto va bene, allora resterò qui fino alla fine del ciclo. O non ti hanno sentito. Questa, secondo me adesso che se non, quest'anno me l'ero persa, secondo me non ti hanno sentito. Eri in vacanza, penso. Ah, siete state in vacanza? Io sono stata in vacanza, sì, sono stata in vacanza. Sono partita dove? Per ben 6 giorni e sono andata a Parigi. Ah, e tu invece no? Beh, io ho fatto una lunga villeggiatura dai miei, stile liceo, al mare, con mamma e papà. Cosa devo fare? Una donna... Ah, cioè, perché lei ha il problema, ha il solito problema. Non è un problema. Ha un enorme problema, perché io non la vedevo da qualche settimana... Cioè, siamo sereni, cioè è tutto tranquillo fino alla fine della trasmissione. Io non avrà detto. Questo bambino prima delle 5:15. Chi può dirlo? Bene, allora faccio il mio ultimo lancio. Sarebbe stupenda come ultima puntata. Esatto. Chissà come saranno quotate le donne incinte in borsa. Sentiamolo. La bella estate. Non sta fredda, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Siamo in società, di noi ti puoi fidar. Vuoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai? I migliori in questo campo siamo noi. No, no, no, no, no, no. È una ditta specializzata. Fa un contratto e vedrai basta, che non basta. Ti pentirai. Basta, per favore, gatto e la volpe. Ma io vi mando i pitbull, vi mando il gatto e la volpe. Allora, è sempre la bella estate. Oggi mi stanno facendo la sorpresa. Hanno fatto la festa intorno al falò di fine vacanza qui in studio. Il falò non l'hanno acceso, lo dico prima che arrivino i pompieri. È un tentativo di rieducazione di Tommaso alla Branca alle gioie dell'estate. Sì, proprio a settembre, così poi dico, oh che bello. Così che ti bello. Prepari ancora tutto l'anno. Settimane. Cioè, d'estate. Ah sì, poi, tecnicamente, cioè... certo, sì. Come no, domani ricomincia la caccia. La caccia caccia? No, la caccia, la caccia, no, caccia, Matteo Caccia ritorna lunedì. Ah ok, la caccia a caccia, pensavo. No, no, domani ricomincia la mia caccia personale, sai che comincia a girare, ma se ti fai vedere, ah, vedi le persone, certo, tu sai perché. Vedo cose, faccio gente. Esatto, esatto. Allora, lo so, c'è una forte crisi economica nel mondo, questo si sa. Sì, ecco, sì. Non è questo il motivo per cui oggi non mandiamo i dischi, ma mandiamo, cioè le canzoni, ma mandiamo loro. C'è tutta una filosofia dietro. Come no? Come no? Intanto è arrivato un messaggio di Cesare per Marta. Il quale dice? In ferie l'anno prossimo vuole portare te. Segniamoci Cesare, perché così io so già cosa faccio l'anno prossimo e con chi vado in vacanza. Vai con Cesare, Cesare, vai, certo. Con Cesare. Chiunque Cesare, chiunque tu sia, sappi che la cagnola ha accettato. Ha scatola chiusa. Ma Cesare. Certo. Vabbè ragazzi, però si chiama Cesare. Sì. Cioè, mica poco, si chiama Cesare. Io conoscevo, c'è una garanzia. Io conoscevo, sì, un Cesare che faceva i cappuccini. Beh, spero che non sarà lui. Comunque, basta così. È allora, lui. Parliamo della crisi che ci ha un po' colpito quest'anno. Dobbiamo proprio. E dobbiamo, certo, perché praticamente non so se arriveremo, non dico alla fine del mese, alla fine dell'anno. Il panettone quest'anno non lo mangiamo. Mangiamo quello dell'anno scorso. Io ne ho avanzato uno, pensavo di buttarlo perché deve essere scaduto, ma mi sa che lo tengo. Io li uso come fermaporta di solito in quei casi, perché poi sono abbastanza rigidi. Allora, non so se voi avete, no, non siete state in vacanza, quindi non avete ballato. Eh no, appunto, io sono stata a Parigi, altro che ballare, è stata una vacanza, no. Perché, sapete cosa hanno ballato quest'estate? Almeno a parte così questa danza kuduro di qui sopra. Basta, non voglio più sentirne parlare, capisci? Sono fra 20 anni, quando faremo il come eravamo nel 2011. Ce la saremo sicuramente dimenticata, grazie al cielo. Ci siamo dimenticati quelle dell'anno scorso, figurati la danza kuduro, vabbè. E questa qua ce la ricorderemo o no? It's a black. Ecco, a settembre sapete cosa fanno? Ne ho parlato ieri. Quasi tutti vanno a un corso di inglese perché dicono quest'anno voglio imparare l'inglese. English 24 tutti i sabati alle 19:15 su Radio 24. Oops. Ecco, bella roba, signore, belle, belle robe. Facciamo pubblicità. Così con discrezione. Va bene. Allora, naturalmente poi la frequenza dei corsi di inglese dura 2 settimane, la dispensa viene buttata, altrimenti quelli del Moige o anche Monsignor Tonini, sapendo l'inglese, avrebbero sentito il testo di questa canzone e avrebbero detto aiuto, perché praticamente è, non so, lo conoscete? È un filino, sì, mi sì. Stavo giusto chiedendo appunto. E lei si sveglia, trova uno nel letto e non sa chi è, poi vomita, cioè, proprio una vita, ha studiato dalle orsoline, ecco, diciamo la ragazza, sì, ha studiato sì, dalle orsoline, sì. Quindi ha un temperamento romantico. No. È bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Anche gli accendini. Amore, bello come un bacio, bello come il buio, bello come Dio, amore mio, non te ne andare. Se volete andare via fatelo, no, non vi offendo. Tommaso, no. Per andare, Tommaso. Io devo, tra qualche minuto me ne vado. Ecco, mancava Baglioni, ci mancava Baglioni. È un po' mancato, difficile. Perché ormai lui sta a Lampedusa, ogni tanto va 2 o 3 cosine a Lampedusa, tutti vanno a Lampedusa da lui e dopo gli altri se ne tornano a casa, lui sta a Lampedusa, non è male come. Dove ho messo il Kalashnikov? Devo abbattere il chitarrista. Pronto? Non si arrende. Pronto, Carmen? Alla fine dell'estate. Io volevo dire soltanto una cosa alla Cagnola, che è spettacolare. E tu la senti? Pensa io che la vedo anche, cioè. Ma infatti io penso che sia veramente spettacole e simpatica. Ecco, sì, sì, riesce bene in radio, poi dal vivo ti assicuro non è così. Ma no, per favore, sennò poi Cesare non mi porta più in vacanza l'anno prossimo. Cesare ha detto che mi porta in vacanza. Carmen, Cesare sarà il suo Mr. Big parigino, penso. No, Cesare non è il Mr. Big, Cesare è il pittore, l'artista. Ah, questo no, per noi. Il Mr. Big parigino, visto che la Cagnola raccontava di essere stata in vacanza a Parigi. Io ne ho uno per ogni città, uno per ogni porto. Poi ci lamentiamo di Kate Perry, va bene. Dai. Allora, Carmen, volevi solo salutarci? Cosa c'è? Sì, volevo dire che siete fantastici. E io non conosco molto l'inglese, però posso dire che state molto I love you. Oh, ah, sì, grazie. Siamo tutti I love you. Sì, qua poi fuori ci ammazziamo. E naturalmente, poi tanti auguri alla neo mamma, la vostra collega. Grazie, dura, Carmen. Duro, faticoso. Sarebbe carino se il prossimo anno ci fosse anche una trasmissione su Radio 24. Sulle mamme alle prese con Poppatoio e Pannolini, perché durante l'estate ho già il titolo, Carmen, si chiamerà La Balia Estate. Ho già il titolo, dopo vado su. Carmen, però segniamo il suggerimento e lo inoltriamo a chi di dovere. No, è giusto, perché noi mamme veniamo ignorate. Questo numero che sentite è la pancia di Dea che si picchia contro il tavolo e il bambino si ribella. Dea è lievitata, cioè io ho paura veramente, che ore sono? No, perché ho paura. No, ma non dirlo, Marta, così sembra. Poi svengo, se parto io ci svengo. Infatti ci siamo già divisi i compiti. Quali? Io faccio quella che, come nei film, visto che tutto so che so fare, guardare, urlo spinga, spinga, respiri. Sì. E tengo la mano, poi ci deve essere qualcuno, facciamo Giorgio Maria, con le pezzette bagnate, certo, perché sì, anche quello fanno nei film. Io chiamo il padre, guarda, così esco. L'anestesista no, non me la... L'anestesia? Non c'è bisogno, c'è un nuovo metodo di parto, sì? Si balla a tempo di musica. Sapete cos'è che mi piace di questa canzone? Cosa? Niente, la vivacità, no? E soprattutto la varietà, perché cambia tantissimo. L'hanno veramente proprio fatta bene. Questa è rumena. Beh, è la nuova Europa che avanza. Ma perché Ceaușescu non c'è più? Vabbè, no, non ci posso dire. Io ero rimasta solo alla tua passione per Aiduci. Invece ti piace qualcosa? No, si può peggiorare. Questo ha dimostrato, questa canzone ha dimostrato che la Romania, quando si impegna, può peggiorare. Ma io questa la conosco, aspetta, fammi sentire. No, cos'è? In the town where I was born lived a man who Poi anche canzoni vecchie proprio. Of submarines, we all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Allora, we Beatles, i Beatles erano quattro. E noi siamo cinque. Voi siete 1, 2, 3, 4, 5. C'era anche il quinto dei Beatles. Quindi, esatto, no? Quindi adesso ne sono rimasti due. Non fatemi venire certe ispirazioni, ragazzi. Perché nessuno di voi abita il Dakota? No. No, peccato, no, sarei no, passato stasera. No. Allora, ha scritto Viviana un SMS che dice: delle quattro stagioni sono rimaste la pizza e la sinfonia di Vivaldi. Ha ragione. Non esistono più. Ha ragione. E in quanto a voi dite che fate un baffo di X Factor. Ma io già ho già mandato il provino, sia X Factor che a Star Academy, che ad Amici, non ho ancora preso nessuno, ma... Ma? Tranquilli, prima o poi. Sì. Sì, sì, sicuro. E vabbè, basta usare, avere una buona mira e vedrai come ti prendono comunque. Allora, abbiamo detto tutto di quest'estate? Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto tutto di quest'estate. Abbiamo parlato della Pellegrini, abbiamo parlato di Clooney. Ah, però di Clooney avete detto 2 anni fa si sono messi insieme, ma quest'anno... È scaduto il contratto. È scaduto, come sappiamo. È scaduto lo yogurt, esatto. E si butta via tutto. Quindi. Però lei adesso... fa Ballando con le Stelle in America. Ma è vero? Faceva parte del contratto. Ha fatto la presentazione ufficiale, l'hanno presentata come International Model and Actress, Italian Beauty, Elisabetta Canales. E hanno applaudito anche, non l'hanno cacciata. Ma si sono spellati le mani. Comunque quella che esce alla prima puntata, direi. Dici? Sì, scommettiamo. Le hanno dato pure il ballerino brutto. Questo è un segnale. Beh, l'importante è che non le facciano intervistare nessuno, perché... No, l'hanno intervistata e lei non capiva le domande. Ma vai che su bello. YouTube. Ma con Giorgio come facevano a parlare? Cioè... Ma non si parlavano. Ah, proprio abitavano in due case diverse, eccetera. Allora, siamo quasi alla fine. Mancano, mettiamo 3 minuti e non l'ho ancora fatto sentire la canzone più brutta, diciamo, dai tempi della... avete presente gli uomini preistorici, no? Ecco, mm-hmm. Si incontrano, trovano un sasso, cominciano a batterlo, sentono che fa un ritmo e allora poi di lì nasce la musica. E ci sono stati, non so, milioni di anni di evoluzione per arrivare a questo. Обратно, викни ме, внезапно, прикри ме, изтри ме. Няма да казвам на никой за тебе. Bello, Questo. Mi è sfuggito. Ti è sfuggito perché tu non sei... Dov'è che abiti? Abito... A Milano. A Milano. Se tu abitassi a Sofia, in Bulgaria, non ti sarebbe sfuggito, perché questo è il numero uno della classifica bulgara. Che peccato. Ma è straordinario. Soltanto la bella estate sentivate queste cose. Adesso chi ve le farà sentire? Adesso sapete cosa vi toccherà sentire? Cosa vi toccherà sentire questo. Bello, Io mi sento già male. Raffinatissimo, bellissimo, un pezzo musicale di una bellezza straordinaria. Mm-mm. Vabbè, allora, manca sempre meno, quindi cominciamo. Devo fare qualche saluto, sapete, è la fine. Allora, prima di tutto grazie a Diaverna per essere stata con noi anche oggi. Grazie per avermi invitato. Ma figurati, è sempre un piacere averne due al costo di uno, per cui... Esatto. Beh, Marta Cagnola poi la sentirete... E tanto io di qua non mi muovo. Più no, più beh, non è vero, non mi muovo, adesso vado a Venezia, però insomma poi torno, sarò sempre qua. Quindi sì. Dopo Clooney, dopo Madonna, arriva Marta Cagnola. Senza di me i festival non li possono fare. Ma guarda un po', che belle, che belle cose, che belle cose. Allora, io devo ringraziare chi ha voluto questa trasmissione, Radio 24. Punto. Poi voglio ringraziare Fabrizio Intonti perché è stato l'autore iniziale, il mio coautore prima di partirsene poi per la Turchia, perché anche lui è andato in Turchia, comunque grazie a lui anche naturalmente. Poi grazie a Sabrina, Rosa, Nicole e Jessica. Chi sono? Le centraliniste. Le conosco. Le conosci, sono là, praticamente tu entri, hai queste quattro ragazze che si cambiavano, intercambiabili, e che posso ringraziare? Ah beh, tutti quelli che mi hanno fatto da... Cos'è questo suono? Cos'è? Perché si sono alzati? Cosa stanno facendo? No! Il trenino no! Vai! Siete penosi, veramente. Ma posso concludere due mesi di trasmissione in questo modo? Ma scusa, ma vieni a fare il trenino? Ma non cosa me ne guardo fai ancora lì? Io il trenino pazza. Adesso lo prendo. Mi prendo la M1, direzione Sesto e molla via. Molla le cuffie, molla il microfono, dai, vieni a ballare. Fermi tutti, devo dire un'ultima cosa. Devo ringraziare una persona in particolare. E devo dire una cosa che sarà una frase storica. Beh, sono stato davvero molto bravo.